Periferie. Se tu vai a cercare lavoro non te lo daranno mai qua, perché è molto difficile qui trovare lavoro sul quartiere. Sì, se noi per esempio apriamo un negozio, 1, 2, 3 giorni, una settimana massimo, poi ti verranno a chiedere una tangente. È brutto spacciare, però loro non lo fanno perché di volontà sua, perché o gli servono soldi o sono stati coinvolti da altri amici. Per esempio, spacca, giochiamo un pallone io e mio cugino e li rompo le cose. Mamma mi dà mazzate forte, ma mi lascio per terra, poi mi metto a ridere. Perché mamma non fa male più le mazzate. Storie di confine, storie di emergenza. Al quartiere San Paolo, periferia di Bari, ne trovi tante. Raccontate quasi come se niente fosse, come quelle di Giuseppe, Vincenzo o Vincenzino, che le mazzate ormai non le sente più. Ma anche qui una luce spunta. Nel peregrinare tra le strade del quartiere, tutto uguale al punto di perdersi, spunta una scuola media un po' speciale. I locali sono divisi tra chi segue un normale corso di studi. Quasi normale, ci raccontano, perché qui il turnover degli insegnanti sfiora il 70% e in molti scappano appena possono. E le aule di classi un po' speciali. Fuori non leggi prima A o seconda B. Ma nomi, Antonella, Clara, Stefania, sono insegnanti un po' speciali. È l'ultimo dei progetti nati, che i soldi in periodo di crisi per le casse pubbliche le ha raccolte anche dai privati di Fondazione Vodafone. 20 ragazzi segnalati dai servizi sociali destinati ad essere cacciati dalla scuola. Altri 30 che passano qui i loro pomeriggi tra una partita di ping pong e i compiti per non finire sulla strada. O rinunciare alla scuola, come molti loro amici ci raccontano. Assai, tutti. Quelle cose te le devi insegnare da solo, devi imparare tu a farlo, non che loro ti insegnino. Pure a guidare il motore, perché io lo so guidare. Perché se stanno ancora a scuola, o dovevo essere cacciato per forza, oppure mi dovevano bocciare di nuovo. Che poi sapevo che dovevo avere sempre l'assistenza sociale e così addosso. Io invece capannavo. E che mi hanno detto? Qua so che c'è una speranza di essere promosso alla scuola. Non mi piace proprio. Però io non è che non studiavo, io non mi comportavo male. Sposto i compagni miei. Qua io mi trovo bene perché stanno con i miei amici, siamo pochi, loro sono bravi, capiscono le situazioni. Invece alla scuola è tutto molto diverso. Quale situazione? Ad esempio, se tuo padre viene arrestato oppure beve. Tuo padre ci è andato in carcere? No, mai. Solo il mio zio. Lo scarico di sigarette. Del tuo giro di amiche solo tu ti stai diplomando? Fuori dalla classe sì. Sono tutte che hanno un bambino, hanno una famiglia. Hanno solamente quello. Pure tu sei giovanissima, hai 18 anni. Cioè ogni tanto dico, anch'io vorrei un bambino, però poi ci penso e dico no. Perché comunque non c'è lavoro e poi sono piccola ancora. Ma nel quartiere quanti sono a pensarla come te? Pochi. Quante sono le ragazzine che vogliono lavorare invece di stare a casa? Quelle che abitano a San Paolo, quelle che conosco io, stanno tutte in casa, non vogliono continuare la scuola. Sì, non sono intelligenti secondo loro. Tu vuoi andare anche fino a prendere un diploma? Sì, c'è il termoidraulico. Il nautico mi piacerebbe anche fare, o geometra pure. Senti, cosa fa un ragazzino a San Paolo? Gioca per strada, non studia. Ci sono molti ragazzi che praticano anche del bullismo e rompono le cose. Senti, ma cosa fa un bullo? Un bullo prende di mira persone inferiori a lui con il gruppo. Chi è inferiore al San Paolo? Io, per esempio, i ragazzini che studiano, quelli che non hanno il motorino, come hai detto lì. A te ha mai fatto qualcosa? A me, sì, mi è successo. Ragazzi che provano a cercare un'altra strada. E anche noi prendiamo un'altra via. Con Orazio, il coordinatore del programma per i ragazzi, torniamo verso Bari. Ops, verso il centro. E in macchina chiacchieriamo un po'. In qualche maniera loro devono avere la forza di tirarsi fuori da questa situazione. Chiaramente questa cosa, detta così con le parole, è molto semplice e facile, però nei fatti è molto molto complessa. Molto spesso per loro basta trovarsi veramente nel luogo sbagliato al momento sbagliato. E una vita è segnata. Molte ragazze sono incinta di ragazzi con ragazzi al loro primo rapporto, così per caso. Mi dicevi questo quartiere ci sta provando in qualche modo. Quali sono i segnali secondo te? I segnali sono sicuramente quelli dei ragazzi che adesso iniziano a capire che i percorsi scolastici sono importanti, che il lavoro è importante, il fatto di riconoscere qual è il modello giusto, qual è il modello sbagliato e poi scegliere. Fino a qualche tempo fa non c'era possibilità di scegliere niente, non c'era possibilità di scegliere la scuola, non c'era possibilità di scegliere dove andare, cosa fare, perché non si potevano nemmeno allontanare dal loro quartiere perché non c'erano i collegamenti con la città. In questi ultimi anni iniziamo a vedere veramente la metropolitana, il centro direzionale, è il segno che questo quartiere inizia a scuotersi. Per arrivare a Bari ci abbiamo impiegato 10 minuti praticamente nel nulla. Sì, perché è volutamente isolato il quartiere, è stato creato distante dalla città. Essere nati al San Paolo è già un marchio? Beh sì, molti dei ragazzi usano spesso dire, lo dico in dialetto, di io so du CEP, quasi a scopo intimidatorio. CEP è la vecchia denominazione del quartiere, centro di edilizia popolare, lo usavano quasi come un'arma, no? Segno di un quartiere che in qualche maniera usa come immagine quella della violenza, della forza. Poi questo, anche questo modo di dire è cambiato, adesso dicono vado al quartiere. Ecco, anche questo è un passo avanti in questo senso. Si nasconde un po'. Si vergognano anche, i baresi che il San Paolo non ci hanno mai messo piede, qui la gente non ci va per caso, ecco. Ci deve andare, ma non ci sono tanti motivi poi alla fine per andarci. E allora, la successiva tappa obbligata è l'ufficio del primo cittadino di Bari, il sindaco Michele Emiliano, che è anche un ex magistrato. Se vivi, come capita al San Paolo, lontanissimo dal centro, sei vicino alla zona industriale, non invece al centro culturale e al mare. Per un barese stare lontano dal mare è un dramma. Peraltro il San Paolo fu un quartiere realizzato molti anni fa, deportando le persone proprio sulle camionette militari. Questo entra nel DNA anche delle generazioni più recenti. Hai la sensazione di essere stato mandato via. La metropolitana in qualche modo sta ricucendo questa ferita. Ci sono box trasformate in abitazione, ci sono palazzi che cadono a pezzi. Per questo, che interventi ci sono? C'è l'idea di restituire a questo quartiere una vivibilità e anche il nome di quartiere comune, di un quartiere qualsiasi. Ecco, la normalità al San Paolo è un obiettivo. E quindi il meccanismo che stiamo studiando è il seguente: accordi di programma che consentano agli istituti di case popolari di abbattere e ricostruire queste fatiscenti palazzine in accordo con i privati, aumentandone anche se del caso i volumi. E si potrebbe in questa maniera abolire il concetto stesso di casa popolare, perché i condomini verrebbero ricostruiti come condomini qualsiasi, dove case di proprietà pubblica e case di proprietà privata potrebbero convivere. L'Italia è stata massacrata dall'idea dei CEP, di questi quartieri che sono un po' in ogni luogo, soprattutto al sud, che sono diventati poi anche luogo di alimentazione della criminalità organizzata. E questo massacro ovviamente non sarà facile da risarcire, però la prima parola che ti dicono e che ti spezza il cuore è: noi siamo abbandonati. Quartieri come il San Paolo sono ancora fortino della criminalità. Qualcuno ci ha detto: i grossi boss sono in carcere, ma qui comandano ancora in pochi. Al quartiere San Paolo in questo momento comanda lo Stato, questo glielo assicuro. Quando facevo il magistrato della direzione distrettuale antimafia di Bari mi occupavo proprio del San Paolo, io ho fatto molti processi che riguardavano gruppi di quel quartiere. In questo momento è chiaro che anche solo portare un antico cognome può indurre ancora un po' di timore nella popolazione, ma molte cose sono cambiate. Ma davvero le periferie sono cambiate? Fuori, nelle vie del passeggio, ci aspetta Gianrico Carofiglio nella sua veste, anche lui, di ex magistrato e scrittore. Gli chiediamo cosa sono queste periferie per Bari. In passato erano, usando una metafora, la cattiva coscienza della città, ma mentre prima era una cattiva coscienza in gran parte sepolta, che è la città, virgolette, per bene, la città che stava bene, tentava il più possibile di eludere, di cancellare, di rimuovere appunto dall'orizzonte della consapevolezza. Adesso sono dei pezzi in cui faticosamente si sperimenta il tentativo di una unificazione, che poi è anche una sorta di pacificazione sociale. Se dovesse raccontare un quartiere come il San Paolo, che quadro ne farebbe? Beh, il quartiere San Paolo è un quartiere che io racconterei narrando nella storia. All'inizio il contenitore dell'emarginazione che dalla città vecchia e da altre zone veniva scaricata, allontanata anche soltanto dallo sguardo in una città separata. E poi una storia criminale durissima di guerre, di clan, di controllo del territorio, di avamposti dello Stato che davvero erano delle specie di Fort Apache, e però prosegue con una serie di risultati delle istituzioni pubbliche, in primo luogo quelle repressive, ma non solo. Ci sono zone in cui siamo ancora molto più indietro, per esempio l'appendice del San Paolo che è Enziteto, che effettivamente è tuttora un posto, come dire, per usare un eufemismo, molto molto difficile. Ma poi c'è il quartiere Iapigia, che è un quartiere molto complesso e che in passato è stato un'icona, una metafora del potere criminale, più ancora del San Paolo. Primi anni 90 questa gente controllava il quartiere con vedette munite di radio e sostanzialmente le forze dell'ordine erano escluse dal controllo di questo quartiere. Poi, siccome appunto gli scrittori sono bugiardi, mi inventerei qualche cosa per dire quello che secondo me succederà poi, che è poi quello che io spero succeda. E allora, perché no? Proviamo noi a inventarci un finale e lo facciamo scrivere ai ragazzi del San Paolo, dove c'è chi sogna ancora. Io, la grande, vorrei essere una brava persona innanzitutto. Vorrei essere una cosa costiera, che sia un lavoro che si stia sul mare, perché a me piace il mare. E tu da grande invece cosa vorresti fare? L'avvocato. Se voglio studiare lo faccio. Vivresti ancora al San Paolo? Sì, piace molto, perché è bello. Si chiude qui questa puntata di Periferie insieme a Fondazione Vodafone Italia. Nel prossimo appuntamento, sabato alle 13:30, andremo a Torino.